L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern? Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Per il programma, ti seguo sempre dalla mattina alla sera. Oi, buonasera Peppe. Dal fuoco a una banca, che senso ha? Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza, cioè se non do fuoco a una banca sono un coglione, minchia, secondo me. Senza parolacce, scusa. Dov'è che sta scritto che non ho bisogno di parolacce? Dove sta scritto che non bisogna dire? No, non sta scritto. Buonasera, non metti mano alle pistole, vero? No! Cioè, allora ti spiego. Allora, caro David, sai cosa mi è successo oggi? Mi ha chiamato una gentile signora, una signora ottantenne, anzi no, mi ha mandato una lettera, una signora ottantenne, da Asti. Ha saputo, ascoltando la radio di notte, che ho una passione per i busti. Lo sai cosa vuole fare? Mi vuole vendere un busto. Vuole fare i sordi, amico mio, sta signora. Giusta apertura per una giornata. No, mi vuole vendere un busto, dice lei, un preziosissimo busto di Napoleone Bonaparte. Beh, mi ha mandato tutto, mi ha inviato tutto. C'è tutto il profilo. No, io capisco l'interesse giornalistico di questa notizia che ci sta rivelando. Ma non c'entra niente, ma queste sono cose fondamentali, quelle che ti sto raccontando. Il busto che una vecchia ti vuole vendere. Ma certo, sono cose fondamentali. Una signora di 80 anni mi vuole piazzare, e questa è la genialità, capito? Una signora mi scrive una lettera e mi vuole piazzare il busto di Napoleone Bonaparte del 1880. Beh, dimmi te se non è meraviglioso. Io lo trovo stupenda come al cosa. Top, proprio, sì. Cioè, mi vuole piazzare, poi me lo vuole vendere. Mi diceva al telefono: ma sai, 10.000 euro. Però poi lo posso vendere ora anche qua. Ma glielo devi comprare ora. Ora glielo devi comprare. Io vorrei sposarmi no, vorrei avere un rapporto sessuale con Alba Parietti, lo dico subito, un rapporto sessuale profondissimo a questo punto. Già lo volevo avere prima, vabbè, ma quello va da sé. Adesso, dopo quello che ho sentito ieri sera, una frase sola, di confessioni di Crociati. Voglio avere un rapporto sessuale con la signora Parietti. Ah, per la Parietti. Battaglia con i vegani, dici. Beh, te. Amico mio. Senti, la cena, cioè hai un vegano a cena. Sì, ho visto. Quanti visto. Problemi ti dà la presenza di un vegano a cena? Beh, a Parietti bisogna avere rispetto per chi invece. Io francamente quando c'ho un vegano a cena mi vorrei ammazzare, giuro, alle volte dico no. Quindi non inviterai Teresa a però, cena a casa però, tua. I vegani sono, diciamoci, con tutto il rispetto, i vegetariani già di meno, i vegani, insomma, io non ci ho mai capito niente di quello che mangiate o non mangiate, siete l'ossessione dei poveri disgraziati che organizzano le cene. Però mi sembrano una forma ossessiva un po' patologica, francamente, come quelli che si fissano appunto adesso, no basta questo, faccio solo questo, bevo solo questo, mangio solo questo e rompono un po' le palle al mondo intero. Rompono le palle al mondo intero. Ed effettivamente è così, perché se uno si facesse i cazzi suoi, dice io voglio mangiare, no, vegano, eccetera. No, no. ti dicono che se tu invece mangi la carne stai perpetrando un assassinio, stai facendo un olocausto, stai rovinando le risorse del pianeta. Ma di che però problema? Ieri c'è stata anche un'altra scena favolosa in questo programma Signor Innocenzi, che è il signor Corona. Beh, il signor Corona anche lui lo voleva abbracciare fortissimo, il quale ha sbroccato, perché adesso ragazzi è vero, la televisione ha i suoi tempi, però uno non può essere abbandonato in uno studio. L'avranno abbandonato così, lo hanno interpellato dopo un'ora eccetera, e quello giustamente ha sbroccato. Corona, lei cosa dice? Cosa vuole che dica? Li avete parlato finora di maiali, io ci sto facendo la figura del pollo qui. Avete perché, invitato, Corona? Non posso fare un discorso, sviluppare. Eccoci. Ma siamo, no, cedo la parola, parlate voi, non si può maltrattare uno così, non farlo parlare e non poter sviluppare un discorso. Mi scuso con lei, ci sono stati diversi imprevisti, fra cui l'intervento della Lorenzi. Vi cedo volentieri la parola, voi e i vostri pollai, maiali e pollastri. Ma no, Corona, non faccia così, insomma. E vi prego, la prossima volta non venitemi più a scocciare. Sono 8 ore che sto qui in posa senza poter parlare. Ma adesso non vuole approfittare dell'occasione per parlare. Perché mi sono rotto i coglioni, che non mi fate parlare. Quindi vi saluto e buona pace e buoni maiali a tutti voi. La ringrazio, Corona, mi dispiace che non voglia più parlare. Fuori dalle palle. Vabbè, un po' di educazione non basta, capisco che sia arrabbiato, però insomma, l'educazione dovete averla voi, non invitare a fare il pagliaccio una persona. No, no, ma che pagliaccio, Corona? Però se non vuole più approfittare dell'occasione per parlare, mi dispiace. No, ho approfittato abbastanza di fare il fesso qui di fronte a voi. Ma Corona, se lei adesso vuole può dire quello che pensa, se no non lo ritiene opportuno. Ma cosa volete che dica? Non c'è un filo, non posso più seguire un filo. Ma non posso più seguire un discorso. Fine, c'ha ragione lui, dai, se uno è vero che è stato scortese, però è Corona, se stai lì non lo lasci parlare, a un certo punto questo sbrocca, dai. Ma abbiamo amici miei il candidato più chiacchierato, Parenzo, sul web dappertutto, è diventato un mito assoluto, un mito del web, tutti lo amano, certo. È un particolare, è particolare. Lo abbiamo conosciuto anche perché aveva a un certo punto cercato di picchiare un suo collaboratore, poi si è pentito. Gerardo Bevilacqua da Cerignola, buonasera. Grazie. Bevilacqua, come andiamo? Tutto bene. Come sta andando questa campagna elettorale? Ma è vero che lei vuole uscire alla prima botta, se no si ritira? Sì, a prima botta. A prima botta. La faccio. A prima botta, perché le cose sono assai a questo paese. Come, scusi? No, lei parla. Cioè, in che vuol dire? Se nulla hanno fatto, diciamo, il Cerniola è distrutto, capito? Ah, è distrutto. Diciamo, la seconda Grecia, diciamo, il Cerniola, la seconda Grecia, va bene? Sì. Si parla di tutto a questo paese. Sì. Di questi politici. Che hanno combinato? Che hanno combinato questi politici? Cose brutte. Brutte. No, ma che hanno fatto, appunto? Che hanno fatto a Cerignola i politici? Che hanno fatto? Hanno distrutto tutto. Sì, distrutto tutto di lavoro, diciamo, di cultura, sì. Di tutte cose. Ma io sto parlando e voglio parlare di questa cosa qua. Sì, vale, scusa. Perché hanno messo un mostro, sia a Cerniola un comte mito in tuo paese, sì. E no, un mostro. Un mostro, sì, un mostro. Sì, non avevo capito. Un comte mito in tuo paese. Hanno messo un mostro, forse non torna qua a 5 km. Sì, a 5 km. Perché africano, l'altro paese, a Zapponeta, che stanno volendo un'altra creazione, sia a Cerniola, sì. E sia a Zapponeta. Quello sarebbe, scusate, però io sarebbe forse... il termo valorizzatore, questo ho tradotto. Ho capito poco, sì, però, quello che abbrucia, quello che abbrucia. Un mostro. Ma lei che ci fa? Se lei dovesse diventare... Capo ci muore in creazione, dimmi. C'è che fa morire i cristiani, sia la traduzione. Ma io ho capito poco, però parlate lentamente, aspetta, allora... Però, Bevilacqua, lei è perfetto, lei sta andando benissimo. Allora, la cosa fondamentale è questa: se lei diventa sindaco, c'è questo inceneritore, no? Lei che fa con questi? Lo abbatte subito. Toglio questo mostro questo paese. E come questo fa? Questo mostro, io lo toglio e basta. Toglio, sì. Popolo di Cerignola, chi Cristian di Cerignola? Ma con la piccona, come fa? Con un mostro che io. O c'è mamma in comoro, se è a Zapponeto, o vediamo c'è mamma. O c'è mamma a lei, o vediamo un po' chiamare. Sì, soldi perché sì, la manual che forse adesso questo qua ho capito di meno. Io dal pugliese sono abbastanza afferrato, però in questo caso ho afferrato di meno. Cioè, lei com'è intenzione di abbatterlo questo mostro? Sì. Cioè, con la gente di Cerignola dietro, con la gente di Cerignola, Kimmon, con la forza, con le mani, con la mano, con la forza dei cristiani, no, con la forza, no, con le mani, no, che mani, con le mani, con la forza, con le mani, bravo, con la forza di popolo, di cristiani, non è. Però io voglio dire una cosa. Non è semplice con le mani, No, ce la facciamo. Cioè, ma dica una cosa, che voleva dire? Con la rabbia. Beh, poi? Io voglio dire una cosa. Dica. Noi abbiamo a Cerignola una, diciamo, morgue una al giorno, diciamo. Una? Muore un cristiano al giorno, sì. Muore un cristiano e una a Cerignola. Io dico una cosa. Sì. Un giornalista noi abbiamo a Cerignola, sì. Il giornalista, va bene? Bah, sì. Io dico una cosa, ma voi scrive sti cristiani che morno, come fanno a morire, come morno? Voi scrive che adesso questi hanno morendo i cristiani, che te muore il cancro, ma voi scrive per una cosa. E perché non lo scrivono? Perché non lo scrivono? Perché magna! È un magna round. Ah, dici sono dei magnoni. Ah, è un magna magna, dici, cioè prendono i soldi. Magna magna, certo. Cioè, sti giornalisti sono corrotti, dici. Sono corrotti sti giornalisti. Ma ho fatto la denuncia, denunziamo tutti. Ma perché mi denuncia? Io ho detto la verità. Quando morre una persona, denuncia? Tu la scrive. Devi scrivere, faccio la traduzione. La morte del suo cristiano, la morte Cristiano. Del cristiano, ce ne so. Cancro e tamau. Cancro è la seconda cosa, non l'ho capito. Cancro? Questo mostro che non tenem, Sì. Ha capito? Allora, io sono dalla parte sua, bevi l'acqua, sono dalla parte sua. Fermi tutti, abbiamo un attimo di interruzione. Resti lì perché dopo le voglio fare ancora parlare di Cerignola. Abbiamo capito tutto. Guardi, lei parla in pugliese, un pugliese perfetto, un pugliese meraviglioso. Vuoi fare il tuo dovere? Sì. Vuoi fare il tuo dovere? Faccio il mio dovere, dimmi. Oh, il suo dovere, che cagli, do scrive, come ci cristiano. Scrivilo. Torna, signor. Io sto parlando la verità perché voglio bene il mio paese. Certo. Ma tu sei di Cerignola o no? Dica questo giornalista. Sì. Un giornalista, ma sì, di Cerignola o no? E invece no. Ma vabbè. Tu sei fatto. Fermo un attimo, fermo, si fermi, bevi l'acqua, un attimo solo. Prego. Traffico veicolare. La Zanzara. Sì, è inutile che raccontate cazzate. L'unico personaggio vero che vale la pena sentire. Gli altri dicono tutte cazzate, dai, tutte cose scontate. L'unico personaggio che vale la pena sentire in queste elezioni, in questa tornata elettorale, si trova a Cerignola e si chiama Gerardo Bevilacqua. Gerardo, dimmi. Eccoci qui. Allora, dimmi una cosa, ma è vero che tu eri povero? Io sì, ero povero e sono ancora povero, questo è vero. Vengo dalla povertà e non mi serve la ricchezza, che non ho di bisogno. Io e la mia famiglia viviamo onestamente. Ma che fai di mestiere? Di mestiere che fai? Non mi ricordo più. Che fai? Io sono agente di compagnia assicurazione, sono mosso fermo perché le assicurazioni costano molto, però sono agente teatrale. Di opera lirica e di opera napoletana, di sceneggiate napoletane. Ah, agente teatrale, ma se quante cose fai? Ma tu sei di sinistra o di destra? Sì. Non si è capito questa cosa? No, di destra no, di sinistra sì. Di sinistra, no. Come mai di sinistra? Di sinistra. È perché sono un di Vittoriano. Mia madre ho luttato con Giuseppe Di Vittorio. Ah, addirittura. È andata pure in galera mia madre con Giuseppe Di Vittorio. E so che vuol dire. Ma perché sei di sinistra? Perché mangiare il pane a terra. Ma perché sei di sinistra? Ma non sei renziano propriamente, renziano. Sono di sinistra perché tengo il colore di Gesù Cristo, un colore cattolico, hai capito? Rosso. Ah, è rosso, il sangue di Gesù. Il sangue di Gesù. Voglio bene a Padre Pio, voglio bene a Di Vittorio, perché Padre Pio e Di Vittorio hanno rumore su segno a tutto il mondo. Allora io nomino sempre a quelle due persone. Cioè Padre Pio e Di Vittorio. Padre Pio e Di Vittorio. Però voglio capire una cosa. Cattolico, però diciamo sto fuori dalla politica, perché Di Vittorio non era politico. I politici ti fanno schifo, diciamola tutta. No, i politici sì, mi fanno schifo proprio. Come schifo? Ma fanno l'uomo te. I politici e sì, i partiti. Io ribellione sono un ribellione di un popolo, perché voglio bene un popolo. Vuoi bene al popolo, sì, vuoi bene al popolo. Io sono Ma ne muore una al giorno. Ne muore una al giorno, abbiamo capito, ne muore una al giorno. Senti, ma ti sei pentito di aver dato quello schiaffo a quel tuo collaboratore, quella sediata là? No, pentito non pentito, sono cose così, è nato così quel schiaffo. Ma che aveva fatto quello là, quel poveraccio? Va bene, malinteso, beh, siamo amici, siamo dato la mano, è successo. Ha sbagliato a organizzare le cose. Non va niente. Scusami Gerà, ma se diventi, io spero che tu diventi sindaco, io vorrei fare un collegamento da qui alla fine della campagna elettorale, un collegamento al giorno da Cerignola. Però. Magari al signore, sì. Ma magari al signore, non c'è bisogno del signore, c'è bisogno della radio. Però dico una cosa, ma tu perché non organizziamo a Cerignola un bel gay pride? Beh, sì, come vuoi, come vuoi. No, ma aspetta, non hai capito. Mi chiami e facciamo tutti quello che tu vuoi. No, ma il gay pride. Cioè il gay pride. Che vuol dire pratica? Che vuol dire? Io c'ho mio fratello qui. No, il gay pride. Gay pride, il gay pride. Sai che cosa sono i gay? Gay pride. Che vuol dire? Questi frate ma me qui non no, che vuol tu dire. Sai che so i gay, sai che cosa sono i gay o no? Ah, i gay, i froci. Ah, i froci, ricchioni. Come ricchioni? Sono peccati anche loro, sono peccato. Stanno nel peccato. Siamo peccati tutti, uno è nato così. È nato così. Peccato, lasciamo ma a te non ti piace? Non giochiamo su queste cose. No, vabbè, possiamo organizzare una bella cosa, il gay pride, che sfilano là. La possiamo pure, sono esseri umani anche loro pure. Cioè hanno i loro difetti, dici, sono un po' malati, no? Sono un po' malati. Va bene, i difetti perché sono nato così. Sono nati gay. Come sono nati i froci? Come sono nati? Ma che ne so io la verità è che è nato boom, ma mo fatto nascere boom, sì, frate me, sì, sono, va bene. Che sono? Boom bene. Che sono? Che vuol dire? Sono siete cresciuti come? Normali, dici tu? Ah, sono figlio di Dio. Ah, cioè pure che vuol dire? Ah, sì, certo. Figlio di Dio, io sono cattolico, capito? Ah, sono figli di Dio, certo. Non voglio giocare su queste cose. No, ma senti, ma qual è? Peccati. No, sono tutti peccatori, sono peccati. Sono persone, ma umane come noi, peccato, perché io ma scusa, io risento queste cose qua perché sono peccate, dai. Senti un po', ma dimmi una cosa, ma la prima cosa che farai noi dobbiamo dire le parole a chi ci fanno morire, a chi ci fa morire, certo, ma chi ma come farai morire i mostri, ma la prima cosa che i patroni chi tenne si mostra, hai capito? La prima cosa che fai a Cerignola quando vinci, che cos'è a parte l'inceneritore e quelli che ti ammazzano la gente di Cerignola, che fai subito? Io la prima... togli questi mostri che ne sono due, sì. E poi la seconda cosa di dare lavoro e come fai casa lavoro pulita. E bisogna anche togliere un po' di zozzeria dalla strada, un po' di porcheria pure perché se mannezza tutta forte, non si capisce di mannezza. Che sono e queste le fus, che sono le fus? I fus sono le fosse. Ah, le fosse, le buche, ho capito. Senti, ma come siete messi lì, Gerardo? Come siete messi lì a prostituzione? Ci sono le prostitute là? Va bene, questo come si dice, ci sono a tutte le parti, dove ci sono le campane, ci sono le chiese, stanno a tutte le parti. Che cosa dobbiamo fare? E che ne so, facciamo le case chiuse, che i bordelli, no? No, è meglio a fare una casa, ma non a tenere in mezzo alla strada. Sono appunto. Certo, senti, amico, case. Vabbè, ci risentiamo nei prossimi giorni, mi raccomando, Beh, va bene, ti saluto per mio fratello qua. Salutami tuo fratello, va. Salutami. Viva Cerignola, viva Bevilacqua! Brucità. La Zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Prego. Prego. No, quello era tumore, avevo capito che era tumore. Ragazzi, dopo questa intervista, follia con il signor Bevilacqua, direi che possiamo anche chiudere. Che dici tu, Davide? La Claire, completamente. Chiudiamo la Claire. Qui, perché più di questo non si può fare. Non vi possiamo dare. No, più di questo non c'è nulla. It's impossible, really. È impossibile, è impossibile. Really, really. Questo non credo. Amico mio, ma tu lo sai che Berlusconi ha detto che lui non soffre di personalismo? Chi dici tu? Berlusconi. Berlusconi. Questo nuovo qua mi dice qualcosa. Io dal 94 mi dice qualcosa, però è tanto che non l'ho sentito. Beh, ultimamente lo dovresti aver sentito perché è tornato un po' all'assalto. Battaglia con Leone. Sì, lotta come un animale. Non soffro di personalismi. Certo, questo è abbastanza. Questo non credo. Non sono assolutamente capace di sentimenti negativi verso nessuno. E anche che non soffro di personalismi nella maniera più assoluta. Ragazzi, però adesso si può dire, forse non è capace di sentimenti negativi, vabbè, può questo darsi. Questo tutti lo dicono, può darsi, no? Però ragazzi, dai. Non soffro di personalismi. Si sente il migliore di tutti, ma giustamente è una sua caratteristica, anche il suo, no? Poi senti che cosa dice, le elezioni il 31 maggio, perché ancora questa cazzata che viene sempre detta dal 94, perché i moderati fanno il ponte col 2 di giugno. Cioè, a parte che la parola moderati a me mi fa incazzare, solo l'esistenza e il sentire la parola moderati, ma chi cazzo sono i moderati? Ma che vuol dire i moderati? Tu non hai un linguaggio moderato. No, diciamo. Ma non capisco che vuol dire. Quando uno dice i moderati in Italia, ma non vuol dire una mazza i moderati, non vuol dire nulla. Comunque Berlusconi dice che il centrodestra, chiamiamolo così, anche se ormai è tutto finito, è tutto mischiato, eccetera, è penalizzato dal fatto di votare il 31 di maggio, ancora con queste storie. Non è una occasione di voto come le altre, tra l'altro il voto è stato messo il 31 di maggio probabilmente perché si ritiene che i moderati vadano a fare un ponte collegato al 2 di giugno e quindi è importante dedicare mezz'ora, un'ora del proprio tempo in queste 7 regioni a compiere un dovere che è anche naturalmente un diritto. Oh, ma protagonista in queste ore anche la sua compagna, la Pascale, la quale dice che De Luca odia i napoletani. Ma dai, su. L'unica parola che mi viene in mente su De Luca, primo perché è razzista nei confronti dei napoletani, la seconda è che è impresentabile lui e i suoi candidati, ma quello che mi fa più male è... Razzista nei confronti dei napoletani. La Pascale però, adesso me la sono ricordata perché... Pascale, razzista nei confronti dei napoletani, adesso questo francamente mi sembra esagerato, ma io me la ricordo perché nei giorni scorsi la Pascale ha detto una cosa su Salvini, cioè ha detto che Salvini, che è in teoria suo alleato in diverse regioni, cioè alleato del centrodestra, di Forza Italia, eccetera, deve chiedere scusa per tutto quello che ha detto ai napoletani. Il mio totale rispetto e in bocca al lupo per Matteo Salvini, ma sa, io sono napoletana, quindi Matteo Salvini, prima di apprezzarlo al 100%, dovrebbe chiedere un po' scusa ai napoletani per quelle famose canzoni antipatiche. Questo è il mio sangue azzurro che lo rivendica, non posso fare altrimenti, mi dispiace. Se si vuole fare qualcosa. A proposito di napoletani e di Salvini, beh, sentite... stupendo però, brava sta Pascale, mi piace. Sentite No, ha ragione la Pascale, guarda. Sentite la conduttrice napoletana della Sette che si chiama Panella e Salvini. E Salvini perché parlano della puzza, ti ricordi quella canzone Puzzano i napoletani che cantò Salvini? Allo stadio, no? C'è allo stadio tra un gruppo di amici tifosi del Milan. Sentite. Cosa significa razzista? Sentirsi superiore a qualcun altro per la propria razza. Solo un cretino. Però, e quindi siamo uguali, partiamo dallo stesso presupposto bianco. Beh, insomma, lei si sentiva un po' superiore a me. Io sono campana, quando mi ha detto che puzzavo, un pochino superiore a me si sentiva. Ma no, un pochino razzista cose, era, che dice? Non faccia queste cose. Non mescoli il tifo da stadio. Ma allora io devo prendere sul serio i tifosi del Napoli quando vengono a San Siro e urlano bombe a mano? Ma io la prendo sul serio perché lei è un leader politico. Dai, lasciamo perdere, dai, su. Un conto è il tifo calcistico. Non la devo prendere sul serio, va bene. No, ma la domanda è seria o... Era una battuta, ma nemmeno tanto. No, però mi dica... Allora, la Panella napoletana si ricorda di quel coro da stadio di Salvini e gli dice: ma allora lei considerava me inferiore perché puzzo, no? Da napoletana. E glielo ricorda. Devo dire che ha fatto bene. Era un coro da stadio, però passavano alcune cose. Fatto molto bene. Sì, molto d'accordo. Bene. Va bene, da napoletana ha fatto bene, voleva fare anche un po' di sceneggiata. Era evidente che era un coro da stadio quello di Salvini. Però, siccome Salvini all'epoca non era così famoso guarda come adesso. Ma caso, amico mio, la Campania è l'unica regione dove noi con Salvini, no, io no, vabbè, non ma noi. No. non per un'avversione non nei confronti. Si no, ma chissà perché non si presenta in Campania. Perché probabilmente non c'hai voti. Perché probabilmente non hai voti in Campania. Perché è un delitto non avere voti? È un delitto non avere voti. Però c'è questo, dei napoletani se lo ricordano quelle canzoncine lì, siccome loro strumentalizzano la cronaca, qualunque roba accada. E no, vabbè, un corno. Ma lei l'ha ricordato benissimo. Barbara, provincia di Treviso, vai 800 24 00 24. Barbara. Buonasera a tutti. Barbara. Buonasera. Sì, buonasera, sì, tolga il viva voce però, perché altrimenti sentiamo male. No, l'ho tolto il viva voce. Adesso sento meglio, vai. Ok, perfetto. Buonasera, niente, io non sono una vostra ascoltatrice, mio amico oggi mi ha girato una registrazione audio di quello che avete detto, non so se ieri o nella trasmissione di... Sì, lei chi è? Lei chi è? Scusi. Sì, pensavo introduceste voi, chi sono no, io? No, sono no, Alex. Sono l'ex consigliere leghista di Castelfranco Veneto. Ah, la signora Barbara Beggi. Barbara esatto. Beggi. Oh, la signora Beggi. Buonasera. Bene, buonasera. Quella buonasera. Che usò quel linguaggio così forbito ed elegante nei confronti dei negri, degli giusti? No, non c'entra niente i negri. No, non c'entra niente. Che cos'è che scrisse lei, credo, su Facebook? O disse? Allora, sì, io non vi ho contattati per dirvi che cosa ho scritto io. No, no, ma ce lo ricordi a questo punto? Ce lo ricordi? Ma non serve. Io no, serve tantissimo. Come no? Serve. No, serve sempre. Ho fatto delle dichiarazioni per le quali mi sono anche scusata. Sì, lo so, si è scusata, benissimo. No, ma ce le ricordi? Allora, io non ho fatto dichiarazioni sui negri, ho semplicemente attaccato la Kieng dicendo che era un cesso, sì. Esatto, ma quello era un link che io avevo visto e che avevo ripubblicato a mia volta. Non era un link fatto da me, è stato un ricliccare, un ripostare. Sicuramente. Vabbè, lo condivideva quella roba lì, evidentemente. Quel link appunto esprimendomi poi diede anche della mongoloide alla presidente della Camera, o sbaglio? Allora, quelle dichiarazioni, come ho detto più volte, io non ricordo di averle fatte. Vabbè, ma a prescindere da questo, no, scusi, a prescindere da questo, le trovate nel mio profilo Facebook, però io posso anche dire, io mi sono scusata per quelle dichiarazioni, ma ho anche detto che non ricordavo di averle fatte. Vabbè, se lei le ha scritte nel suo profilo, le avrà fatte, le avrà dette, le avrà scritte. Direi. Ma comunque, a prescindere da questo, sono cose vecchie. Sono cose vecchie, Beggi, sono cose vecchie. No, ma io rispondo, non c'è problema. Io le dico anche che molto spesso quando sei in giro e si lascia il telefono su un tavolino, qualcuno ha scritto delle cose al posto. Complotto. No, io non sto dicendo questo, però potrebbe anche essere così perché io non ricordo. Esattamente, quindi essendo che si trovava sul mio profilo Facebook non ho potuto dire che non ero stata io, ma ho sempre... Vabbè, non ho capito, però adesso comunque, la cosa di oggi è un'altra, è uscita una notizia, esatto, se non sbaglio, in la cui... La cosa di oggi è un'altra. La notizia è che lei si sarebbe fidanzata con un nero, è vero o no? Allora, esatto, è uscita questa notizia, io non la smentisco e neanche la confermo. Ma che vuol dire? Ma è il matrimonio di Bush? Mica il matrimonio della figlia di Bush, scusi. Io vi ho contattati perché da questa registrazione che mi è stata girata da un amico, perché vi ripeto, io non sono la vostra ascoltatrice, e vabbè, ma non ce ne faremo una ragione, strano. Sì, immagino sicuramente, ho sentito che voi avete detto una determinata frase, avete detto davanti a un bambù. Vabbè, ma è una battuta, è una battuta. No, no, vabbè, ma guardi, siccome si viene attaccati continuamente in qualsiasi cosa si dica. Ma è una battuta. Non ho certamente questo tipo di... Come ogni cosa che viene detta viene strumentalizzata a favore o a sfavore. Allora, la cosa è molto chiara. Se mi lascia parlare un attimo, gliela spiego. Siccome lei disse, condivise quello che ha appena spiegato. Ma la Kieng... Aspetti un attimo. Siccome lei condivise, disse, eccetera, che la Kieng era un cesso, è uscita la notizia. Che lei si ma sarebbe il collegamento, scusi, ma vabbè, ma è una battuta che circola sul web, dai, io voglio che lei sia qual è il collegamento con ma il collegamento è perché lei è... glielo spiego io perché... Beggi, qual è il collegamento? A parte questo secondo voi, scusate, un ragazzo di colore o come vogliate chiamarlo, che io ripeto ne confermo né smentisco sì, certo, il mio ragazzo. Ma secondo voi è solo quello che può fare? Ma no, ma certo che no, ma si figuri se con noi sfonda la porta aperta. Perché la cosa da fa notizia, cara la mia Beggi? Perché fa notizia? Perché a prescindere, visto quello che lei ha scritto su internet o che avrebbe scritto qualcun altro, sapere poi che una simpatica leghista si mette con un ragazzo di colore o negro, come dite voi della Lega. No, lo dico anch'io. Ha origini potrebbe avere origini, potrebbe non avere, non lo so, origini comunque, di che tipo? Non lo so, cioè potrebbe essere africano, del ma Kenya, ce l'ha il permesso Congo, di soggiorno del, è clandestino. Evidentemente da qui il vostro riferimento è stato al fatto, ma è clandestino, questa, o no? È clandestino, questa, chiamo Bitonci, questa ipotetica persona, vabbè, ma, di cui si sta parlando non è. Ma cioè, ce l'ha il permesso di soggiorno o no? Che da dare è solo quella. Non ho detto questo. È non venuto ho... con il barcone, in mi scrivono. Caso, vabbè, in ma no. Ammesso che fosse vero, io ho questa relazione che ripeto, non confermo. No, smetti, sì, ma è venuto col barcone o no? Non stiamo parlando della famiglia Bush, capito? Non c'è bisogno né di smentire né di confermare. Ma cioè, certo, no, cioè... ma assolutamente. Ma allora, siccome devo stare molto attenta a quello che dico, come. Ma non deve stare molto attenta, non gliene frega niente a nessuno. Stiamo scherzando su una cosa, signora Beggi. Italia. Scusi un attimo, adesso non è che sta facendo il comizio qua, la cosa è molto chiara, sulla rete, sul web, lei può non interessarsi, non può leggere eccetera, è circolata questa battuta qui, non è manco mia la battuta, siccome lei ha scritto che la Chieng è un cesso, adesso invece si è messa con un nero e uno fa la battuta, beh di fronte al bambù, beh non c'è nero che tenga, è una battuta, nessuno dice che i neri hanno solo quello da dare, chiaro? Chiaro? Beh, chiaro? Oh. Sì, certo, è chiaro per voi che l'avete fatta la battuta. Vabbè, l'abbiamo fatta, ogni tanto siamo bambini. Ecco, scendiamo a quel livello lì, chiaro? Meglio, bene. In ogni caso, ammesso anche che fosse che io ho questa relazione, questo non vuol dire assolutamente no, non c'è bisogno di spiegare. La cosa è importante da sapere se è clandestino o no. Ecco, la cosa è importante, è importante però. Il resto delle mie idee sono contro l'immigrazione clandestina. Ma è appunto questo signore qua con cui lei si è fidanzata è clandestino o no? Non rispondo a questa domanda. Non risponda, la famiglia, l'erede della famiglia Bush non risponde. Borsa, lasciamo perdere. Basta. Me ne do, basta. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Mamma lingomoro, se a giapponese, ovviamente mamma, dei, o devono poi chiamare. Questa era la frase più incomprensibile di tutti, credo, eh. Me la traducete per favore dal pugliese, voi pugliesi che siete all'ascolto, rimandiamola un po'. Osho mamana lingomoro, se a giapponese, ovviamente mamma, osho mamana dei, o devono poi chiamare. Ma parlava dell'inceneritore, là di Cerignola, che del mos, non dell'umostro. So come tu faccia a capirne. No, ma io ho visto che all'inizio traducevo perfettamente. Ma è incredibile, ma infatti. Vabbè, ma io con gli dialetti ci convivo. Madrelingua. Ma io sono uno che sente tutto, sono una spugna che assorbe tutto, amico mio. Dai. Allora, mi dicono che l'espressione, a proposito della Beggi, l'ex leghista che pare si sia fidanzata con un nero, anzi sicuro, perché se uno non conferma né smentisce è evidente che si è fidanzata con un nero, dopo aver dato del cesso alla Chieng, l'espressione da usare sarebbe stata questa, era meglio usare questa espressione: when you go black you'll never come back. Beh sì, nota. When you go black you'll never come when back. You try when you black. Try black, varie espressioni anche qua, sono varie interpretazioni. When you try black, il verbo to try che sarebbe when provare. You try black you'll never come back. When you try when you try black you'll never come back. Vabbè ragazzi, dai, 800 24 00 24, vi devo dire una cosa sullo scambismo che è fondamentale, mancava, altra notizia fondamentale del giorno. Certo, mancava, lo scambismo ha salvato molti matrimoni. C'è una storia meravigliosa dal New Jersey che dopo vi racconterò. Altro che perversione, altro che porci. Lo scambismo salva il matrimonio. Uno dei motivi per cui i cristiani, i cattolici dovrebbero, come dire, essere dei fanatici, dei tifosi dello scambismo. Questo non credo. È il fatto che hanno molti matrimoni sono stati salvati da questa pratica. Ma è la realtà. E poi vi racconterò una meravigliosa storia dal New Jersey. Questo non credo. No, questo credo invece. Colombo. No, che è Colombo? Come si chiama? Colombo de nome questo? Vabbè, Colombo da Milano, dai. Scusa, Colombo. Sì, pronto? Sì. Pronto, sì. Dimmi, pronto. Come ti chiami tu di nome, scusami? Io, Cesare. Allora, Colombo è il cognome, Cesare Colombo. È il cognome, sì. Vabbè, esatto. Vai, Cesare, dimmi. Allora, ieri sera, parlando dell'Achille Norberto, mi è stato suggerito di andare sotto le sue Norberto finestre. Norberto Achille, l'ex direttore delle Ferrovie Nord di Milano, che si sarebbe intascato, secondo sue ammissioni, un sacco di quattrini nostri. Esatto. E lì è stato suggerito di andare sotto le sue finestre fino a che rende i soldi. Ma questo è troppo semplice. Io rubo per 17 anni e poi dopo, se mi scoprono, devo rendere i soldi. Beh. No, questo deve essere messo alla gogna per tutta la vita. I milanesi che sono andati a pulire le strade puliscano anche queste cose. Ogni sabato e domenica vanno fuori sotto le sue finestre a urlargli ladro, perché se aspettiamo anche soltanto la questione penale, sì. Intanto adesso hanno fatto la nuova legge, ma lui entrerà nella vecchia legge perché non è applicabile. No, lei dice non bastano, i processi, perché non bastano i processi, ci vuole la gogna pubblica. Ci vuole la gogna pubblica. Cioè, che vuol dire la gogna pubblica? Ogni milanese dovrebbe andare sotto la ogni pendolare dovrebbe andare sotto casa del signor Norberto Achille e dirle, e citofonare, fra poco scopriremo anche il citofono, e dire: scusi, potrebbe andare gentilmente a fare in culo con tutti i soldi che ci ha fregato? Così, basta, semplicemente questo, punto. Va bene, sì. Poi che vuole aggiungere? In modo continuo. Certo, non c'è dubbio, però questa Parenzo, tu sei contrario alla gogna. Io sono contrario. Un stomaco grosso, capisce? Il fatto adesso di andare sui giornali per un po' di tempo, così non gli fa niente. Questa è una cosa continua. Vabbè. Per me è detestabile quel che ha fatto questo manager pubblico. Però dice troppo, andare lì e citofonare. Non mi permette, no, questo non lo farei mai. Neanche inciterei ad andare sotto casa. Se no facciamo la pietra del vituperio, sai, a Padova c'era, al Palazzo della Ragione, nel Medioevo. Scusa, ma se uno si è criminali nel Medioevo venivano spogliati. Però adesso oggettivamente pietra del vituperio e poi cacciati dalla città. Cioè, Cesare ci dice una cosa molto semplice. E questo qua regalava tessere telefoniche a carico nostro. Ma a certo, tutti i suoi parenti, infatti, le auto blu in uso alla moglie e ai figli, figlio in particolare. Ma è chiaramente una vergogna. Le multe pagate da noi, fatte dal figlio, 160 mila euro. Non mi devi convincere, eccetera, è chiaramente una vergogna. Pranzi luculiani sabati, domeniche, in ristoranti pazzeschi a carico nostro. Ma questi qua, qualcosa dal punto di vista, come dire, anche dell'immagine, tutto. Vanno. Beh, già, bisogna che paghi. Ma la sua immagine mi pare bella. Tre giorni sui giornali e poi non gliene frega niente a nessuno. Se fossi lui, dai, mi vergognerei ad uscire di casa. Alessandro da Siena. Alessandro. Ciao Giuseppe. Ciao Alessandro. Dimmi. Avevo già chiamato per parlare di carne animale. Vai con la carne che mi diverte. Mi avevi chiesto se ero Sinocchio, non so se te lo ricordi. Ma no, non me lo ricordo francamente. Ascolta, la Parietti, che vabbè, ce l'avrà coi vegani, io ce la posso avere coi fruttariani, coi melariani, se c'è tanta gente strana. Io mondo, non so, i fruttariani, ecco. I fruttariani, però ieri a Di Pietro gli ha detto che lei la carne non la mangia, quindi comunque il problema c'è, non è che non c'è, poi se tu devi fare polemica. No, il problema non esiste. Il problema non esiste per te, inesistente questo problema. Perché tu sei vegetariano? Sono vegetariano. Allora, benissimo, io ce l'ho con i vegetariani, perché finché uno vuole fare le sue scelte, perché io pensa di vivere meglio. Aspetta, perché pensa di vivere. No, ma certo, perché tu pensi di vivere meglio senza la carne, no? Che stai meglio fisicamente, eccetera. Ma se tu pensi che io sono un distruttore del pianeta, e allora, amico mio, no. Cioè, allora mi ha rotto i coglioni. Ma invece sai cos'è la verità? Che tu vorresti essere vegetariano. Ma figurati. Tu devi fare per forza il cinico. No, io te lo dico, secondo me tu sei una persona sensibile nel profondo, però c'hai questo personaggio. Ma che c'entra la sensibilità? Non è che quelli che mangiano la carne sono insensibili e quelli che non la mangiano sono sensibili. Scusa. Mangiano la carne di solito lo fanno anche per questioni legate alla sofferenza del mondo animale. Guarda, basterebbe che ancora ti con questa stronzata con la sofferenza del mondo animale, amico mio, è da una vita, è dall'inizio del cioè, io non vedo l'ora di andare a casa stasera, perché c'ho una cotoletta alla milanese pazzesca. Io davvero stasera non vedo l'ora, perché stasera mi fanno una cotoletta alla milanese. Guarda che ci sono pure gli ebrei vegetariani, ma io no, ma ho capito, ma ci sono, che vuol dire? Che vuol dire ebraico vegetariano? Ma che cazzo vuol dire? Che mi fa movimento ebraico vegetariano? Ma mai sentito? Ma va benissimo, io lo rispetto. Rispettare anche quelli che non la ma sono gli altri, da voi viene solo lo spotto. Ma sono allora quelli come te che non rispettano noi. È diversa la cosa. Ma chi non rispetta voi? Ma io conosco un sacco di vegetariani rispettosissimi. Invece siete due ignoranti, perché le quote di metano mondiali, ecco, che qua, mettono aspetta, gli allevamenti intensivi, sono il triplo di quelle dei mezzi, no, di trasporto. La cosa che mi spaventa, ora, se tu non sai le cose, allora? La colpa non è di allora? Altri. E allora spiegami, devi allora? Informare, e allora? Fai, ma sai quante cose? Scusami, però la cosa che mi spaventa è che se dovesse governare Alessandro da Siena, io non potrei più mangiare la carne, ma pur non facendo male a nessuno. Governano i carnivori, impara a rispettare la voce. Veramente Hitler era vegetariano, sembra. Ma sono tutte cazzate, ci ho fatto un dottorato di ricerca io. Bravo, allora informaci tu, professore. Vegetariano è una stronzata. Però dipendesse da lei, la carne sarebbe bandita dalle tavole, pure del dubbio, Lorenzo, non c'è. Ma non è che la carne sarebbe bandita. Sì, dipendesse da te, sì. Voi dovete sempre portare il discorso sui punti che non ci sono. Ma come non ci sono? Allora i punti che non ci sono, ti chiedo. Dipendesse da te, potrei continuare a mangiare il pesce e carne? Attuale. La carne nello stato attuale, nella tua, come dire, nel tuo ideale di stato, la carne sarebbe bandita. Ma allora, ci sono degli stati in India dove è vietato persino vendere le uova, ma cosa c'è? Beh, c'è stati in India, infatti stanno come pezzi al culo, con gli animali che girano allo stato brado per tutto il territorio, amico mio. La carnivola basata sul petrolio, se non ci fosse il petrolio, tu la carne la mangeresti una volta al mese. Senti, almeno informati, il problema vostro, senti, amico mio, è che tu siete senza offesa, siete due ignoranti, sì, infatti, voi che vi informate, sì, certo, vi piace sapere. Guarda, l'inquinamento è in un sacco di cose, poi è sicuramente certo, è un sacco di cose, ma cominciamo a eliminare sicuramente qualcosa, negli allevamenti intensivi che dici tu, negli allevamenti Safranfoer, leggetevi Safranfoer, sei un ignorante, senza offesa, ti voglio bene. No, ma per carità, ma poi caschi sempre. Quando senti una persona che casca sempre sulle stesse cose, perché poi voglio dire, che cazzo te ne frega se la Parietti ce l'ha con i vegani o con quella. La Parietti la carne non la mangia, allora chiedile anche perché la carne non la mangia. Ma non la mangia perché magari non la vuole mangiare, semplicemente non le piace, tutto, oppure pensa come di vivere. Ma quello che fanno i vegetariani, pensa non di è che sono tutti. Non è che no, tutti amore mio, il problema. Non rompo nel cazzo quando vai a cena con i carnivori. I carnivori, ma non esistono i carnivori. Non esistono. La follia è questa, che mentre esistono i vegetariani e i vegani, i carnivori non esistono. Quelli che tu chiami carnivori non esistono. La storia, tu non sai un cazzo. Leggiti la storia dell'alimentazione umana. I carnivori sono le persone comuni che mangiano la carne. Certo che sono le persone comuni. Allora a vedere la nascita dell'aumento di consumi di carne, da quando è iniziata, a quando è andata in aumento in Europa. Il complotto dei carnivori. Ma che complotto? Alessandro, ma dai, su, dai. Ciao. Informati un po'. Ciao. Senza controllo sanitario. Andiamo a Francesco, provincia di Foggia. Vai Francesco. Eccomi, buonasera, dimmi tutto. Ma che dimmi sono tutto? Qui per tradurre. Caputo. Che ne so, dimmi tutto, vai, traduci, vai. Eh sì, fammelo ascoltare. Aspetta, rimetti un po', bevi l'acqua. O c'è mamma nella lingua moro, se a zapponeto, allora, sì, ho capito. Lo andiamo a buttare nel mare, sì, o a Zapponeta o da un'altra parte, vediamo cosa fare. Quello è sostanzialmente. A Zapponeta, che cos'è? Un posto vicino? Zapponeta è un posto dove è nato Nicola Di Bari, il cantante. Il cantante, sì, è sul mare, tra Margherita di Savoia. Dunque, la traduzione è lo spostiamo di là. Andiamo a buttare nel mare a Zapponeta, che è più o meno il posto però più anche vicino. Quello inquina peggio. Vuole vabbè, ma era un modo per dire sì, lo buttiamo a Zapponeta, che non è una località, diciamo. Grazie amico mio della traduzione, grazie, ciao, ti abbraccio, ciao, ti abbraccio fortissimo, ciao Bettano, ragazzi. Ma lo sai che anche Cicciolina è vegetariana? No, ma sì, Ilona è vegetariana, come no? Credo di sì, ma non è estremista vegetariana come questi non che ci hanno chiamato, la dai. Carne, Ilona? Ciao. Come sta? Ma è vero che sei vegetariana o no? No, mangio tutto. Meno male. Mangi quindi tutto. Quindi puoi anche chiamare Cicciolino, che mi piace il mio nome. Ti piace? Il mio nome d'arte. Cicciolino Cruciani e Cicciolino Parenzo, vedi? Cicciolini tutti. Cicciolini tutti. Dunque, però non è vero. Ciao, Cicciolino tu, Cicciolino noi, Cicciolino voi. Non è vero, allora, non è vero, cara, che sei vegetariana? Non so, ho saputo questa onorevole cosa. Staller. Ma scusa, perché mai dovrei essere vegetariana? Mi piace molto la verdura e la frutta. perché comunque ti mangia molta verdura, frutta. E la carne ti piace? La carne quella da mangiare? No, quella. Ma io non sono un carnivora, nel senso che non mangio carne perché, ho sentito delle cose. Aspetta, dov'è che ci stai parlando? Hai messo qualcosa davanti alla bocca? No, scusami, non c'è doppio senso. Non c'è doppio senso della mia bocca, non ti preoccupare. No, aspetta che ti sentiamo male, non so che cosa. Adesso ti richiamiamo, Ilona, ti richiamiamo. Aspetta un attimo. Ok. Valerio, provincia di Torino, intanto, vai. Dani. Dimmi. Ho telefonato perché tu facessi leggere le pagine 40 e 41 della stampa di oggi. Ah, sul canile, su quella sede della protezione animali, là, come si chiama? Devastata dai Rom, sembra. Devastata. Hanno devastato anche un canile, signori Rom, sì, di Torino, anche se non è dimostrato ancora, lo dicono i responsabili della. Ma poi se la prendono con i volontari, gente che. Come mai sti Roma hanno devastato sto? Ci deve essere stato qualche. Perché confinano col campo e non so se gli dà il fastidio l'abbaiare di notte dei cani o se vogliono sconfinare dentro. Comunque io voglio solo leggere a Parenzo quello che dice Carlo Sella. Sì, Carlo Sella, tra l'altro, è un'amica di Borghezio addirittura ed è una storica è una che difende. Esatto, una che oggi. Dimmi. Ne abbiamo viste tante, ma così mai. Io mi arrendo, non li difendo più. Cioè, capito? Adesso basta. Ma io posso difendere, secondo te, Valerio da Torino? Ma secondo te io difendo un Rom che devasta un canile? Ma tu puoi difendere. Ma più dove di vivi, Valerio da Torino? Dove vivi? Ma non mi permetterei mai di difendere l'illegalità. Io vivo in un posto dove noi ormai ci siamo rassegnati. Ma perché lo dici a me? Ma cosa me ne. Ma cosa. Ti pare che possa difendere uno che devasta una roba, sia esso Rom? Perché? Ma non uno, è un continuo. Perché spesso i campi Rom. Ma non dirlo a me, diglielo a Fassino di intervenire. Fassino dice, telefona al prefetto sulla stampa, pagina 41. Tolleranza zero e controlli, campagna elettorale. Poi dopo se ne strafega dei cani Fassino, lo sai, no? Il problema vero, Valerio... Che volete da me? No, cosa Valerio ha ragione, perché cosa dice? Perché dice... Guarda che io ho tantissimi amici sinti. Allora, va bene, ma il campo... Ma secondo voi posso difendere io uno che devasta un canile? Uno, due, tre, cinque... Ma no, ma che e tu allora? Continui a dire che appartengono all'Accademia della Crusca? All'Accademia della Crusca. Rispetto ai Rom, che vengono considerati come gruppo etnico e considerati globalmente ladri, questo non ci sto, questo dico semplicemente. Sì, ma tu non. Ragazzi, fermi un attimo. Ho parlato di devastamenti. Allora, qui la cosa è una sola: i campi Rom sono un coacervo di illegalità. E sono pieni di delinquenti, di gente che vive ogni giorno è la realtà. Perché devi negare la realtà? Ma cosa volete da me? Tu neghi questa realtà. E io dico i campi Rom per me non ci devono essere, devono andare nelle case, l'ho detto mille volte, nelle case popolari devono andare. Quale se nelle se hanno case diritto, popolari, mettersi se hanno in diritto. Lista, andare nelle case popolari. Ma questa è una cosa che dico io, adesso ci ho ripensato. Metterli nella condizione in un periodo transitorio di decenza, di vivere in un posto. Ma non c'è nessun periodo transitorio se sono italiani, via via sistemati come hanno fatto alcune cooperative per bene nelle case, questo dico. Vabbè. Cicciola! Eccomi! Oh, si sente o no? Sì, adesso mi senti, ma non mi chiamare Cicciola, che Cicciolina è più bella. Cicciolina, va bene, Cicciolina, ma era un modo così, era un modo Cicciolina, per tornare. Cicciolina. Allora, io voglio... che non abbiamo fatto ieri, perché ieri c'era anche l'avvocato Luca, che è il mio avvocato, sì. Molto bravo. Sì, che voleva, che è anche il tuo compagno, no? Sta dicendo tutta la mia causa, guarda, meno male. Ma spiegami una cosa, Cicciolina, ma tu quanto prendi di vitalizio? 2.000 euro. No, 3.000 lordi credo, no? Lordi che diventano a volte 1.800, a volte 1.900, a volte, ma raramente 2.000. 2.000 euro netti prendi, esatto. per avere fatto una legislatura intera, sei meglio di tanti altri. Per aver fatto una legislatura e comunque io sono stata votata dal popolo italiano, insomma, sono stata ammessa. Cioè non sei stata nominata, dici tu, no? Esatto, non sono stata nominata da un ministro per diventare una parlamentare. Non sei una di quelle, no? una di quelle? No! Una di quelle nel senso, non sei una di quelle che mettono di ragazze, no? Che mettono i ministri o i presidenti del consiglio. Non sei una di quelle del bunga bunga, non hai fatto bunga bunga per andare in Parlamento. Ognuno sa quello che ha fatto, io non ho fatto bunga bunga sicuro. Per cui ho diritto al vitalizio molto più di altri. Ascolta, dici tu. Esiste, non so se siamo già in diretta. Siamo beh, già certo, in ascolto. Che è diretta, questa che è registrato. Che è un bel ambiente. Ma Ilona, certo che siamo in diretta, vai. Direttissima. Dimmi. Allora no, io volevo dire intanto una cosa. Sì, vabbè, ma adesso non c'è il comizio. Sul Libero un'intervista, anzi una dichiarazione che non ho mai rilassato. Quindi anche le parole un po' troppo forti, io non ho rilassato. No, però scusami, Cicciolina, torniamo indietro. Allora, io voglio capire una cosa: tu prendi 3.000 euro di vitalizio lordi, e tu dici lordi, io. Lordi, diventano 2.000 netti. 2.000 netti, ma questi soldi qua a che te servono? Senti, ma perché non gliela chiedi a quelle no, persone? No, ma glielo stiamo chiedendo a tutti, ma te lo chiedo con affetto, ma lo sai quanto diritto. Sai quanto ti voglio, sai quanto allora, ti voglio bene. Allora, al momento stesso che il Parlamento farà una legge che tutti, ripeto, tutti, anche quelli che prendono 1 milione di euro all'anno, sì, rinunciano, io sono ben felice di farlo. Però fino a quel momento devo essere io unicamente a rinunciare di certo, una cosa che comunque è di legge. Certo, tu allora, dici poi io sono stato 4 anni, mi sono fatto il mazzo, 5 anni. No, o sbaglio? Ma io sono stato per 5 anni al Parlamento, comunque ho fatto le mie proposte di legge. Non è che sono. Hai lavorato, dici? Hai lavorato, sedia. Non hai scaldato la sedia. Ferma, ferma lì che c'è la pubblicità. 800 24 00 24 e poi torniamo. Lassativo Parenzo e alla defecazio non ci penso. La Zanzara. Pippe, pippe, pippe, pippe, molte pippe. Allora, caro Parenzo, la presenza di Cicciolina mi induce. Dell'onorevole Stall. Dell'onorevole Stall. Mi induce a raccontarti questa storia incredibile, sì, che ci viene riferita da Dago Spia. Sì. Una signora segretaria nel New Jersey, 42 anni, che cosa racconta? Prima di allora io e mio marito facevamo sesso 6 volte a settimana, concerti, cinema, ci divertivamo, non ci annoiavamo mai. Dopo il parto la libido è crollata, cioè la voglia di fare sesso è crollata. Quando è uscita da questa che lei chiama depressione? Nel giorno del suo 36esimo compleanno, quando entrò in uno strip club Sin City nel Bronx. Fece, cara Cicciolina, con te, come dire, sfondo una porta aperta. Fece sesso con un uomo, con una donna che davanti, non al marito. Davanti al marito. Ah. Però la cosa migliore quale fu? Il sesso successivo che venne dopo tra lei e il marito. Beh, dopo porcheria, che la coppia di estranei se n'era andata. Ma la porcheria. Allora, io la morale è questa: lo scambismo, qualche volta, non sempre, ovviamente, cioè il provare altre cose davanti al proprio partner spesso può salvare anche dei matrimoni, no? Allora, giusto? Giusto? Certo. Certo, si sente una mazza stasera, non c'è niente da fare. Allora, però voglio dire, anche Cicciolina ha salvato, secondo me, un sacco di matrimoni, giusto Ilona? Beh, secondo me, innanzitutto, sicuramente con i miei video dell'epoca, quando faceva Pono Diva, molta gente fece sesso a volontà e sicuramente sono nati anche tantissimi bambini. Io sono convinta che in un matrimonio ogni giorno per salvare il matrimonio dopo diversi anni, perché che bisogna fare? L'attitudine, bisogna rinfrescare facendo delle cose anche un po' diverse. Ma perché mai no? Possono anche fare l'amore, magari anche in 3, in 4, in 5. Perché mai no? Come dice, scusi, signora? No, ha detto che bisogna fare. La Confindustria, bisogna fare l'amore anche in 3, in 4, in 5 per salvare il matrimonio. No, ma ha ragione la signora Cicciolina. Cioè, per salvare il matrimonio. Bisogna, certo, bisogna libero, bisogna ravvivarlo e si può ravvivarlo anche in questo modo, facendo una specie di ammucchiata in casa, poi la gente se ne va e si fa l'amore meglio, giusto? In due. Una specie di ammucchiata o no? In casa, beh, questo dipende dal, diciamo, dal. Io sono per l'amore, nel senso che io sono per l'amore universale. Però scusami, che... Ilona, ti devi sistemare un attimo, perché sennò veramente sentiamo poco. Eccomi, sono qua, mi sono ricaduta. No, ma no, è proprio la cornetta del telefono che non va bene, non so perché. Cioè, io non so come devo fare. Così, io... ecco. così, ferma, così. Allora sto ferma così, ok? Oh, perfetto. Allora, che dicevi, scusa, a proposito della... Ma qual è la cosa più incredibile che hai fatto? Cioè, tu? In quanti dovrebbero essere, ecco, secondo lei? Ecco, in quanti eravate? Non nei film, nella vita normale, in quanti eravate? Ma guarda, io nel matrimonio diciamo che non ho utilizzato questo tipo di metodo di fare sesso con davanti al mio ex marito americano e quindi... Cioè, tu sei sempre stata fedele? Nel matrimonio sei sempre stata fedele, no? Sì. Stranamente sì. Cioè tu sei stata fedele nel matrimonio, eri fedele nel matrimonio, a parte i film, diciamo. Scusatevi, no? Scusami, amico mio, perché la persona stessa non la meritava, l'americano, il signor scusatemi un attimo, se commento, scusate se commento. Come si fa, con tutto il rispetto, a parlare di fedeltà con la situazione? Staller fa un lavoro che per definizione, no, diciamo, lei dice che però col marito non ma ha mai tradito. Quando sono innamorata sono estremamente monogama. No, ma è monogama. No, ma è interessante questa cosa. Cioè, per lavoro non sei stata monogama, però nella vita normale. Il lavoro è lavoro. Il lavoro è un lavoro che svolgevo, che si chiama Porno Diva. Sì. Ed è un lavoro dove si faceva sesso dai 10 di mattino fino alle 6 del pomeriggio. E come facevate a fare alle 10 di mattina fino alle 6 di pomeriggio? Io? Conoscendo nuovi porno divi, porno artisti. E facendo delle riprese con, che ne so, due donne, due uomini, un uomo, una donna, due negri, tre bianchi, tre cinesi, insomma. No, cinesi mai, abbiamo detto, cinesi mai. Però vabbè, adesso lasciamo perdere questa parte qua. Voglio tornare sul vitalizio, con una domanda molto semplice. Lo sai che ti voglio bene, ma oggi, adesso siamo seri, se non ci fosse questo vitalizio che prendi, in che condizioni stai? Cioè, ti serve per campare questo vitalizio? Diciamola tutta. Allora, ascolta, io non è che ti voglio parlare della giustizia italiana, perché sarebbe molte cose da poter raccontare. Questo ti dovrebbe raccontare magari il bravissimo avvocato Luca Di Carlo, come funziona la giustizia. Sì. Io collaboro insieme con un artista geniale che è Gianni Domingo Bove. Che no, però aspetta, io ti sto chiedendo una cosa. Tutte le mie serate. Sì, d'accordo, però al di là di questo, se non ci fosse, al di là del tuo lavoro, delle tue serate... Guarda, è inutile che voi mi state stuzzicando, perché mi state stuzzicando. Non certamente il 1800, 1900 o 2000 euro quel che mi danno al mese a me mi cambia la vita, certo, ma ci sono delle persone al Parlamento a cui c'è un ministro, c'è su Facebook, l'ho visto, dal 51esimo anno prende 9000 euro al mese. No, ma certo, ma mica ho detto che è uno scandalo. Guarda che dirigenti prendono 300-400 mila euro al mese. Ma volete mettere vicino? No, ma lei ha ragione, secondo me. No, ma scusa, ho capito. Rivendica il fatto. Non mi cambierebbe certo la vita se io prendessi 300.000 euro al mese. Ma 2.000 euro non è che mi cambia, non per niente. Io sto lavorando, vado a fare talk show, vado a fare il mio love tour nelle discoteche. Però voglio dire, Ilona, se non ci fosse. Comunque, tra l'altro, ti confido una cosa. Dimmi. Io sono un personaggio scomodo. Rai 1, Rai 2, Rai 3 se ne sbattono e non mi fanno entrare nel palinsesto di loro. Te lo devo dire, perché magari molta gente non lo sa. Che devi fare Rai 1, Rai 2, Rai 3, scusami. Che devo fare? Ma ci sono delle ospitate di tanti artisti, i talk show televisive. A me non mi chiamano, perché addirittura una persona che chiamano Rocco, su Rai 1 ha detto: Ilona Staller è un personaggio scomodo per Rai 1. Spiegamelo questo adesso. Per quale motivo? Perché cosa c'ho addosso che io sono un personaggio scomodo? Ma non sei scomodo. Ma non lo so, non credo. Questi sono una bella vergogna. Punto. Sì, non ti chiamano, la Rai non ti chiama per le ospitate. La Rai no. Però quando io la cosa il mio che libro autobiografico per amore non per forza. Non ti hanno chiamato. Rai 3 non mi ha chiamato, che tempo che fa? Si è scordato che Cicciolina è uscito con il suo ma libro. Adesso, però adesso scusi, onorevole Staller, lei rivendichi cose anche perché molta gente non lo sa. Aspetta, Ilona, aspetta. Secondo me lei, io la chiamo onorevole Staller per rispetto, perché è stato deputato. Lei Cicciolina cara, rivendica quello di quei soldi mi spettano di diritto. E non ci rinuncio, questo lei dovrebbe dire, perché in fondo esatto. Lei ha ragione, secondo me. Ripeto, non è che c'è una legge e la legge la fa il Parlamento, giusto? Sì. Se nel Parlamento ancora lo stanno e comunque vige questa legge e ci sono persone che prendono fior di milioni di euro, io me li tengo quei soldi, eccetera. Allora non è del onorevole, come dici te, o Cicciolina, che prende i 2000 euro che li cambia l'economia italiana, intendiamoci, vero? Non cambia nulla, diciamo. Non è mio. No, però dovresti dire milioni di euro. Vabbè, abbiamo capito. Però scusami, Cicciolina, scusami, tu dovresti dire: io questi soldi me li sono guadagnati e me li tengo, non mi rompete. Ho fatto 5 anni di Parlamento dall'87 al 92. Vabbè, ma non è che ti sei. Mi sono stata votato dal popolo italiano con i radicali, perché magari qualcuno capito, non ma il vitalizio ricorda. È una cosa sbagliata, tu lo sai, no? Ascolta, il vitalizio ce n'era già prima che io facevo il parlamentare, sappi? No, lo so, sappi? Lo so, certo. Non lo so, no, no, so io, perché io non, già quando sono entrata al primo anno già parlavano del vitalizio, solo che allora non era tanto popolare, non ne parlavano più di tanto. Adesso voi mi avete preso come un capro espiatorio. Ma che capro espiatorio? Ma quando mai? Per parlare dei vitalizi. È 20 giorni che parliamo dei vitalizi, Lona. Deputati, senatori a vita, mi spieghi cosa servono i senatori a vita? Vabbè, adesso, con sì. Tutti i soldi che prendono? Ma no, ma figurati, con me con i senatori a vita sfondi una porta aperta. Senatori a vita? Io, secondo me, se io fossi stato al Parlamento, i senatori a vita rimane il titolo, però non prendono una lira. I deputati e i senatori di oggi dovrebbero dimezzare i stipendi. Dimezziamo. Non sono io che faccio la legge in Italia. Ho capito, ma intanto tu per 5 anni te becchi 2000 euro di pensione fino a quando muori. Speriamo ma non che... è che io becco chissà quanti milioni di euro, scusa. No, ma ho capito, non saranno milioni di euro, sono 2000. Lo sai quanti pensionati italiani. Una barzelletta sul serio. No, Cicciolina, ma lo sai quanti pensionati italiani vorrebbero prendere 2000 euro? Dai, su. Tu cosa ne sai se io faccio delle beneficenze, se non aiuto della gente? Ma non lo so, dimmelo tu. Ma non certamente vado sbandierare il problema del aspetta che mi sta suonando su. E chi è? Pannella. Luca Di Carlo che mi sta controllando sul telefono. Però scusami Cicciolina, io voglio dire una cosa, è vero che volevi i soldi in contanti a un certo punto o no? Allora no, è successo questo, che mi è stato un quinto del mio indennizio, sì. È stato pignorato al Parlamento e il mio avvocato, con l'avvocato Luca Di Carlo, legale mio, siamo andati al Parlamento perché lui ha fatto una diffida alla Camera dei Deputati, purché entro 5 giorni venga restituito questa somma di denaro. Te l'avevano pignorato. Senza alcun diritto, perché abbiamo portato già il documento del giudice. Punto. È tutto quello che succede. Che lotta. Però, guarda che si parla di che ne so, di 3.000, 4.000 euro. Però tu lo volevi, a un certo punto li volevi in contanti questi soldi, o no? Era meglio se te li davano in contanti, o sbaglio? No, ma non è proprio così. Non è che io volevo in contanti. Dovevo comunque pagare delle cose che tu non puoi sapere di quello che mi sta succedendo, che c'è un po' di cause in giro, per cui io... Ma questo tuo marito, questo tuo ex marito, quel personaggio è tremendo, ti chiede i soldi. Non lo so quel che personaggio è, io certamente, visto che nessuno è ricchissimo, sa, è ricchissimo. È molto ricco, ma io non prendo mantenimento di ex moglie nemmeno una lira, punto. Ma è ricchissimo. Bene che voi sapete, perché me l'hanno detto diversi, ma come, tuo marito sicuramente ti paga fior di milioni? No, io non prendo mantenimento di ex moglie, io ancora lavoro e guadagno e di ma come guadagni. Mai come mai questo qua ricchissimo non molla qua? Come mai? Perché è diventato famoso grazie a Cicciolina, tutto lì. Addirittura è diventato famoso grazie a Cicciolina, cioè ti ha sfruttato. Ti ha sfruttato, ti ha sfruttato. Probabilmente sì. E non tira fuori un euro, ma è una cosa incredibile. No, Jeff, signor Jeff, esattamente un euro, niente. È una cosa pazzesca. Senti, ti faccio sentire quello che ultimamente, proprio qualche giorno fa, ha detto Rocco Siffredi su di te. Senti, aspetta. Aspetta, Rocco numero uno, aspetta. Dopo la pubblicità. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La zanzara. Allora, a parte che volevo dirti che comunque la zanzara è un pompino radiofonico, è straordinario, siete straordinari, comunque al di là di quello. ed è un lavoro dove si faceva sesso dai 10 di mattino fino alle 6 del pomeriggio. E che cos'è? Che è un bel ambiente? Ambiente di maiali. Allora, grande ritorno qui alla Zanzara di Cicciolina. 800 24 00 24. Aspetta un attimo, Milona, fammi sentire i due ascoltatori, Luciano da Torino, vai Luciano. 800 24 00 24. Luciano. Ciao Luciano. Luciani, volevo soltanto dire che Cicciolina, quando ha fatto il parlamentare, arrivava in Parlamento con un tailleur blu, molto castigato, e che secondo me ha lavorato benissimo, ha avuto presenze molto maggiori. Ma questo eri presente tu? No, ma è vero, questo. No, magari era presente. Ci sono tutti, no, non ero presente, ci sono tutti i video su YouTube, andatevi a guardare. No, ma è presente. È stato un parlamentare estremamente più serio del branco di puttane che ci sono adesso. No, no, ma io non dico niente. Io la considero assolutamente un ottimo parlamentare. Ma infatti noi radicali mi dà molto meno fastidio che i miei soldi vadano a Cicciolina, che è stato un buon parlamentare e che mi ha fatto divertire gli occhi quando ero ragazzo, rispetto a un sacco di altri animali che attualmente hanno la grande fortuna che ho una moglie meravigliosa, due figlie stupende, un lavoro che mi soddisfa. Per cui a questa gente io non farò mai nulla. Cioè tu se mi stai dicendo che preferisco, se proprio devo decidere, io li abolirei i vitalizi, se proprio devo decidere se dare i soldi a qualcuno, meglio Cicciolina, che è stata 5 anni in Parlamento, ha fatto più o meno il suo dovere, eccetera eccetera, piuttosto che a questi qua. Che Cirino Bomicino, tanto per non fare nomi o farne un nome tutto. Ma Pannella che dice di Cicciolina? Abbiamo detto noi radicali da sempre con Cicciolina Premier, che noi l'abbiamo candidata quando in un Parlamento dove c'erano le puttane, noi abbiamo detto: onorevole Staller, ora subito liberare la prostituzione dalla partitocrazia, con Benedetto Croce, con Pasolini Croce. Abbiamo costruito l'alternativa laica, liberale, liberista, esperantiana, libertaria, transnazionale e transpartitica. Ma poi va fregato, perché è rimasta in Parlamento mentre voi volevate che si dimettesse. Poi lei contro di noi, abbiamo detto dimettiti, dimostra che il corpo della donna nudo davanti al potere democristiano, socialista, comunista. Abbiamo detto anche ad Adelaide, chi all'epoca ma c'è gente giovane che ascolta, non capisce un cazzo. Dicemmo a Croce, Don Benedetto della tradizione laica e liberale di Einaudi, si disse radicali ora per liberalizzare la marijuana. Ragazzi, sfumiamo. È impazzito Pannella. Rocco Siffredi su Cicciolina alla fine di aprile. Cicciolina era molto presa dalla politica, quindi io queste scene pazzesche con lei non le ho mai fatte, però lei aveva un problema, voleva assomigliare a Cleopatra, la bellezza che non svanisce mai, si lavava col latte di capra. Purtroppo questo odore terribile faceva. Sì, ma è la verità, e lei lo sa, lei lo sa. Io mi sono permesso di dire in un'intervista che era molto complicato fare sesso con Cicciolina, perché che era si sentiva molto l'odore. Era un bagnocchioma. Guarda. La prima cosa che voglio chiedere a Cicciolina è questa qua. La seconda invece. Aspetta. La seconda, ti faccio sentire ancora Rocco, Io ero sotto, lei era seduta sopra, parlava con Marco, mi ha detto: Ilona, dammi un minimo di... Poi prendeva Craxi, poi prendeva... perché c'era tutto il periodo... Quindi lei è stato anche con Craxi? No, e per interposta, sì. Ma com'è possibile fare sesso mentre uno è al telefono con un altro? È bel lavoro! È lì che è dura. Sì, ma non si vedeva nel film che Cicciolina era al telefono? No, perché inquadravano solo me e il mio datore di lavoro. E il datore non aveva problemi? No, perché lui era connesso con me, non eravamo molto connessi con Ilona, che era in un altro mondo. Allora, ci sono due questioni fondamentali. Primo, è vero che puzzavi di capra? Guarda, io non ho mai fatto nel latte di capra il bagno. Aspetta, riavvicina di nuovo la bocca al microfono. Ecco, mi senti? Adesso sì, vai. Allora, io non ho mai fatto il bagno nel latte di capra, e poi tra l'altro io facevo dei gran bagni fantastici, con i petali di rosa e con dei bagni schiuma profumanti. E non capisco. Che ne so. L'invenzione di Rocco improvvisamente inventano le cose più turche. Mamma mia. Dunque, non è vero, falsa questa cosa qua, che puzzavi di capra perché facevi il bagno. Rocco intanto dice delle cose simpatiche, dai. No, vabbè, ma in questo caso ha inventato, dice. Ha inventato completamente, non è vero. Ma che io sappia no. Poi tra l'altro guarda che io con Pannella mentre facevo sesso con Rocco che tra l'altro tu lo sai che io e Schicchi l'abbiamo inventato Rocco. Sì, lo so, l'hai già detto. Moana Pozzi, altri personaggi, per cui Rocco deve essere felice che insomma tutto sommato insomma, è diventato un personaggio. Ma lo sa, lo sa, lo sa, vabbè, grazie lo a te. Lo sa, lo sa, e spero che insomma ti ringrazi. Perché da non ti ha mai ringraziato. Mentre ancora. Invece io sì, ha ragione quando dice che io sono di un altro mondo, io sono un personaggio unico, e più unico e più anche raro. E quindi ecco perché è un grande successo, perché se no. Però scusami, è vero che eri al telefono con Craxi e Pannella e con altri politici mentre facevi sesso sulle sezzetto? Io con Marco Pannella mi sono incontrato diverse volte. Ma hai mai fatto all'amore con Pannella? Questa è curiosa come cosa. Ma perché mai dovevo fare all'amore con Marco Pannella? Io ho un grande stima per Marco, io adoro, è un grande leader. E con Craxi? Con Craxi? Non ho fatto nemmeno con Craxi, con nessun parlamentare, è un politico con cui hai fatto sesso. Sono vergine in questo senso, sono molto trasparente in tutto. Cioè sei vergine coi politici? Non sono mai un deputato né corrotta né... Ma che c'entra? Uno può fare sesso anche per divertimento. Sei vergine con i politici? Certo. Con i politici? Sono tranquillo che se mi andava di fare sesso con Craxi ci avrei fatto. Vabbè, quello non c'è dubbio. Ma come ti guardavano anche i democristiani? Ti guardavano per bene, però. Vabbè, i democristiani dentro la camera, è roba vecchia. No. È roba vecchia, dai, sarà su. Anche vecchia, ma tanto. Con qualche politico l'avrei fatto, dai Ilona, su, con qualche politico l'avrei fatto. Campo fresco oggi che ha piovuto tantissimo. No, non ho fatto sesso con i politici. Aspetta, riavvicina di nuovo il coso, riavvicina, ecco, di nuovo. Mi senti? Sì, ti sento, ti no, sento. Non ho fatto sesso con i politici. Non hai fatto mai sesso con un politico? No, bah, no bah, perché bah. Non è, il mio mondo, la mia sessualità lo vivevo all'infuori del Parlamento. Del Parlamento, certo. Comunque, io sono curioso, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa. Il film di cui ci hai annunciato tempo fa, a che punto è? Come andiamo avanti col tuo ritorno sul set? In un punto che sto cercando dei sponsor, dei produttori seri, perché ce ne sono, si sono presentati dei produttori, ma quelli che spariscono dopo un periodo di tempo perché dicono oddio mio devo pagare, perché loro vorrebbero fare i film di pagare dopo, invece che serve il pagamento prima, perché magari sai i film si fanno quei soldi, nel senso soldi vabbè non ancora non è partito nulla, questa è la realtà, ma non è partito ma un titolo ce l'hai in testa? Okay. un titolo ce l'hai in testa o no? Il titolo per il momento è troppo presto per dire. Ma che ne so, un titolo che ti è venuto in mente, che ne so? Cicciolina is back, che ne so? Cioè, no, Cicciolina is back, guarda, questo film dovrebbe essere un film culto, erotico, porno, molto bello. La mia non è un ritorno, sarebbe un ultimo, unico film. Appunto. Sì. Ultimo tango, ultima cicciolina a Parigi. Invece perché a Parigi? Ultimo tango a Parigi, no? Ultima cicciolina. A Zagarolo. Potrebbe essere tipo ultimo tango a Parigi, potrebbe essere anche solo erotico, insomma. Io non escludo, ma possono essere delle scene boccaccesche molto belle, molto interessanti, con molto una bella. Vera propria storia. Potresti prendere Cruciani come comparsa ma nel film? Ma buono un attimo. Potresti. Se mai un giorno vengo in radio e vi faccio il striptease direttamente. Cosa fa? Scusi, signora, lo striptease in radio. Vuole venire qui a fare un striptease. Però le rammento che mezzo, questa è la radio della Confindustria, signora. Comunque vitalizio per sempre, no? Me lo tengo stretto il vitalizio. Giusto. Me lo tengo stretto, dillo, me lo tengo stretto. Una cosa, dimmi. Nulla è mai per sempre, come anche l'amore, è molto difficile dire che è tutto per sempre. Se tutto cambiare, può cambiare anche in politica, quindi io non ti saprei dire di quello che da oggi a fra due anni cosa potrà succedere mai politicamente però in Italia. Puzzavi di capra o no? Non puzzavi di capra, non puzzavi. La risposta no. Ce l'hai data, non puzzavi è di capra. Un profumo di rosa, bellissimo. Un profumo di rosa. Ciao amore, ciao, ciao tesoro, ciao, ciao. Un bacio, ciao. Arrivederci signora. Andrea, provincia di Vicenza, dai. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, innanzitutto potreste rinvitare Pannella però, perché io mi ricordo al di là del... Cercheremo di farlo, odio. Prima della fine di questa stagione cercheremo di farlo. Ragazzi, è un grande, 85 anni, no, a parte uno. Davide che l'ha imitato in ragazzi, maniera fantastica. Di che stiamo, è parlando? È il numero uno, non c'è e in questi giorni c'è la dimostrazione... Io mi addormento con Radio Radicale. No, ma la dimostrazione del fallimento dei radicali è proprio in questi... No, stai zitto un attimo. La dimostrazione del fallimento dei radicali è proprio in questi giorni. giorni, quando si è scoperto, per chi ancora non lo sapesse, noi lo sapevamo che ci occupiamo di queste cose della politica, di cui non si occupa la maggior parte delle persone, per fortuna, è che i radicali avevano quest'usanza che ha creato questo disastro, non tanto Cicciolina, che poi quale è rimasta tutta la legislatura, scusa, quella di Pezzana, quell'altro che per un giorno poi prende il vitalizio, eccetera. Abbiamo candidato Toni Negri. Quelli che si dimettevano. Si dimettevano dopo un giorno, dopo una settimana, bellissimo. Facevano la rotazione, hanno creato vitalizi, casini, no, pazzeschi. Loro. Ma no, come ma questo no? È ingiusto, ma non ma è vero, ingiusto? La ma grande storia realtà. Radicale, ma veniva fatto ma per dare rotazione, per dare protagonismo. Allora abbiamo era tutto deciso dal satrapo, era tutto deciso dal satrapo. Abbiamo quale satrapo? La democrazia del diritto, il diritto alla democrazia. Andrea, vai, dimmi, dai. No, abbiamo... Volevo solo dirti, ma solo per giustificare i radicali, dai. Io che non sono radicale. Ma quale giustificare, dai, su. Esiste uno che comanda da 50 anni, dai, su. È peggio di Kim Il-sung, di Kim Jong-un. Pubblico dei partiti. Ma se hanno preso soldi pubblici da una vita, non diciamo cazzate, dai. Abbiamo restituito in piazza i soldi del finanziamento pubblico. Spuma pannella, vai, Andrea. No, ma è un grande, lascialo pure. No, volevo solo dire questo, che prima io sono a provincia di Vicenza, ho sentito la consigliera di Castelfranco, mi sembra che, sì, che ha chiamato. Beh, io penso che se uno si fa eleggere e quindi ha una responsabilità, che sia consigliere comunale o che sia deputato, quando parla poi è logico che la gente la può accusare perché è eletta dal popolo. Vabbè, se, allora? Beh, dico, deve sempre rispondere di quello che dice. Cioè adesso voi giustamente l'avete... no, il problema è molto semplice. È chiaro che adesso chi se ne frega perché è uscita dalla Lega, forse non fa più politica. Ma una che ti dice: ma è vero che sei fidanzato con un negro adesso, dopo aver detto che la che anche un cesso? Non confermo né smentisco. Come la famiglia Bush. Ma vattene, dai, su, fermi tutti. Va bene. E adesso la borsa. Lo facciamo 1440 volte al giorno. Alla Welcome Italia siamo fatti così. Diamo sempre il massimo per fornire i migliori servizi di telecomunicazione. Così anche oggi abbiamo controllato una volta al minuto la stabilità delle linee di ogni nostro singolo cliente. E nel frattempo abbiamo risposto al 97% delle chiamate in tre squilli, perché il tempo dei nostri clienti è prezioso. Fidati, possiamo farlo anche per te. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Chiama il 145, ti rispondiamo in tre squilli. Stanco di pagare? Diventa popolare. Popolare. Passa da noi. Porta il tuo dossier titoli al Banco Popolare. In esclusiva per te. Non paghi bolli senza limiti d'importo fino al 31/12/2016. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi disponibili in filiale su bancopopolare.it. Offerte riservate ai nuovi clienti fino al 31/12/2015. Passa al Banco Popolare. Popolare. Popolare. Diventa popolare. La nostra società ha ancora potenzialità in Italia, ma all'estero molte di più. La mia è un'impresa sempre più micro. Lavoro solo con l'Italia da troppo tempo. Cerchi più fatturato all'estero? Comark. Comark ha già fatto crescere centinaia di imprese di ogni dimensione e settore. Un temporary export specialist lavora in azienda con te, ti porta gli strumenti e le competenze per crescere e il suo compenso segue i risultati. Chiama Comark 800-123-640. Comark. Globali si diventa. www.aziendedisuccesso.it. La ricerca si è spinta sempre più avanti. Ha migliorato la nostra vita e sconfitto tante malattie che oggi non ci fanno più paura. Ma non ci basta. Noi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. La ricerca avanza, il cancro trema. Dai il tuo 5 per 1000 all'Istituto Europeo di Oncologia. Sostieni la ricerca e le cure. Vai su IEO.it. Io per IEO. La Zanzara. Oh, make me over. Minchia, ma la banca è l'emblema della ricchezza. Cioè, se non do poco alla banca sono un coglione. Minchia, secondo me è senza parolacce, scusa. Dov'è che sta scritto che non bisogna dire parolacce? Dove sta scritto che non bisogna dire? No, non sta scritto. Look at my face. Allora andiamo a Napoli, Giuseppe, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, io sono vivo a Napoli, però sono originario di un paesino vicino a Cerignola. Sì. Niente, volevo dire che praticamente nonostante il vostro tentativo nei confronti di Gerardo Bevilacqua, non penso ci abbia fatto una pessima figura. Io non ho fatto nessun tentativo, guardi, di farlo. Mi sembra che sia già sufficiente quello che abbiamo sentito. È un personaggio assolutamente originale, punto. Ma tu stai facendo il tuo lavoro ed è corretto. Ma è un personaggio originalissimo, io lo adoro. Qual è il punto? In mezzo a tante persone false, finalmente una persona che non si vergogna di dire, di parlare delle sue origini, di dire che comunque di essere anche ignorante, di dire che è analfabeto e tutto. E infatti volevo anche sottolineare, per cui perché devi dire il tentativo di, cioè noi facciamo il nostro mestiere, ma non c'è nessun tentativo di ridicolizzarlo, anche perché volendo fa tutto da solo, cioè. Ognuno fa tutto da solo. Non credo abbia detto stupidaggini, guarda. Giusto per sottolineare questa cosa qua. Poi giusto per, quando hai parlato del Gay Pride, ci diamo del tuo, visto che mi hai dato sì, del sì, tuo certo, certo, vai. Quando avete parlato dei gay, che lui ha detto è peccato, ma non è inteso come peccato in senso cristiano, cattolico o religioso. È un termine che da noi si usa per dire che qualcosa non bisogna prendere in giro, non bisogna tra virgolette sfotterli. Sì, ma a me sì, non lo so, ma non stavo nemmeno giudicando quello che ha detto. Grazie, Luigi da Latina, vai. Luigi. Sì, ciao. Dimmi. In merito ai vitalizi, allora abbiamo appurato che questi politici praticamente si fanno le leggi da soli, no? Abbiamo appurato. Assolutamente. Abbiamo appurato. Certo, no? Ma magari la gente non lo sapeva, ma quello che è già stato scritto è sempre nuovo quando torna fuori un problema. Io non capisco qual è il tuo problema, non ho capito. Stai dipingendo questi qui che prendono quelli il vitalizio. I vitalizi vanno come cancellati. Dei criminali. Vanno cancellati. Ora, anche per il passato. Questi qua anche se lo tengono, perché sono come tutti gli altri italiani, dice non abbiamo rubato. Abbiamo il vitalizio. Alcuni di questi peraltro hanno lavorato tutta la vita facendo politica e anche per bene. Occhetto è uno di questi. C'entra? Che ne dicono quei quattro stronzi che telefonano dicendo come che, perché così vanno aboliti alle 20:37. Vanno aboliti. Ma vanno, aboliti. Va bene per il futuro, infatti. No, ma anche per il passato. Vanno aboliti. Dopodiché, per il passato vanno parametrati allo Stato. Siccome sono delle pensioni. Vanno parametrati alla pensione media degli italiani. E questo si può fare, benissimo. No, non si può fare perché nessuno lo fa. Tu, come tu ben sai, il vitalizio, a differenza della pensione normale, non ha neanche la rivalutazione dell'Istat. Oddio, ma chi se ne frega, Luigi, vai, chi se ne frega? È populista grillino. Ma che c'entra? Ma chi se ne frega? Ce l'ha detto anche Mughini. Ci manca pure, ma che c'entra? Quella è l'opinione di Mughini, io la penso diversamente. Ti ha bastonato. Io la penso, ma non ha bastonato nessuno. Ma non ha bastonato nessuno, Luigi. Ti ha bastonato. Ma quando mai? Ti ha bastonato. Per quanto riguarda i vitalizi, quindi, neanche gli organi di controllo, in quanto sono nominati o eletti dagli stessi, dalla stessa casta, chiamiamola così. No? Quali organi di controllo? Ha avversato questo tipo di legge che si ma quali organi di controllo? Di cosa parla di organi di controllo? La soluzione per limitare questo tipo di situazioni, queste onnipotenze, è quella di vincolare alcuni provvedimenti, a mio avviso, a una consultazione popolare. Provvedimenti sì, che riguardano stipendi, vitalizi, immunità, qualsiasi cosa che possa rendere la classe politica privilegiata rispetto al cittadino. Vabbè, Luigi, grazie. Umberto, provincia di Modena, dai. Umberto, provincia di Modena, vai. Ciao Cruciani e ciao Parenzo. Dimmi. Ciao. Mi sembra che nella tua trasmissione il sesso sia abbastanza ricorrente, no? Il sesso, sì. E non abbiate nemmeno peli sulla lingua nel parlarne. Ma sì, dipende dalle situazioni, però ogni tanto esce fuori, certo. Bene, allora, un paio di puntate fa avete avuto in trasmissione Formigoni. Sì, due giorni fa, allora. Sì. Bene. L'abbiamo chiamato per la vicenda dell'Alitalia, eh? Cioè, sia chiaro, per la sceneggiata però, che ha fatto lì. Sì, certamente, però dico, quando hai degli ospiti, la domandina sul sesso non manca mai. Sì, però amico mio, non è che mi devi insegnare questo mestiere. Non mi devi insegnare questo mestiere, come si fa o come non si fa. Che cosa volevi che domandassi? Delle preferenze sessuali di Formigoni? Che cosa volevi? Ma per quale cazzo di motivo gli devo chiedere se gli piace prenderlo in culo oppure gli piace forse. Non lo so, ma è guarda che è incredibile. Perché Formigoni è uno di quei personaggi. Vabbè, ma prima o poi mi capiterà nella vita, non è l'ultima volta che viene. Non è che hai dichiarato per niente. Quando decido di fare un'intervista sul sesso a Formigoni, gliela farò. Ma non ma devi in essere. In passato gliel'abbiamo chiesto. Ma a parte peraltro, che gliel'abbiamo chiesto nel passato, ma non mi interessa. Questo Umberto mi vuole suggerire il modo, le domande che devo fare a Formigoni. Ma chi se ne frega di quello quello che pensi tu di cosa devo domandare a Formigoni. Io a Formigoni chiedo quello che mi pare. Quando gli vorrò chiedere del sesso, se è gay, se non è gay, se lo prende dietro, se non lo prende, se lo dà, se è asessuato, eccetera, chiaro, eccetera. Il concetto ma quello... non dirà mai che, lo, che è gay. Ma allora che cosa glielo chiedo a fare? Lo vedi ma... che ti rispondi da solo. Ti rispondi ma da solo. Devi sfrugogliare. Ma sfrugogliare su che? Ma qui non è il circo Barnum, è spesso circo Barnum. Ma non è che posso dire a lui, scusi. Vabbè, Umberto, hai ragione, metti qua al posto mio. Vieni qua al posto mio e fai il conduttore al posto mio. Non mi rompere i coglioni, dai. Cruciani non offende mai nessuno. Mai, mai. Ma guarda, è una cosa incredibile, guarda. Cruciani non offende mai. A me mai la gente nessuno. Mi fa impazzire perché scrivono: dovevi chiedere questo, dovevi chiedergli se scopa. Poi quando lo faccio, ci sono altri che intervengono e dicono: no, ma che domanda hai fatto? Non è possibile. Chiamiamo quel signore lì che ti ho detto prima. Aspetta, prima no, c'è un signore. Aspetta, che poi si chiude, andiamo tutti a casa. Devo andare da bene in casa, mi sono rotto le palle. Dai, chiamiamo quello lì. Aspetta, amico mio, ma è tardi. Aspetta. Ma no, che è venerdì, no, abbiamo dai. Un signore che è molto interessante. Ho promesso a bene in casa che avevo chiamato quell'ospite che ti ho detto. Ma non me ne frega niente di quello che hai promesso. C'è un signore molto interessante che si chiama Marco Giai Levra. Buonasera, signor Levra. Buonasera a tutti. Come buonasera. Stai? Quanti anni hai? Diamoci del tu, dai Marco, quanti anni hai? Sì, ciao. Io ho 40 anni. 40 anni. Ma tu sei un insegnante, adesso? Giusto? Sì, sono un insegnante, faccio supplenze nelle scuole, più faccio diversi altri lavori. Allora, però la tua particolarità, diciamo, è che magari è comune ad altri italiani, Parenzo, sicuramente non a noi, è che sei fruttariano, e cosa giusto? Vuol dire? E cos'è? Che vuol dire? Sì, esattamente. Che vuol dire fruttariano, Marco? Esattamente. Vuol dire che mi nutro solo di frutta, dolce, acida. Non ci se ne frega. Semiacida, eccetera, la classica frutta, quella che tutti intendono per frutta. Sì. E anche i frutti tra gli ortaggi, cioè hai eliminato che cosa? Al di là della carne, che penso che consideri il male assoluto, no? O sbaglio? Sì, beh, quello non lo menziono neanche, certamente. Neanche, certo. Cioè, chi mangia la carne, secondo te, chi è? Come si può definire chi mangia? Secondo il mio parere è un cibo abominevole, però. Ma chi la mangia? Chi la mangia che è complice di un assassino, complice di un olocausto, è un assassino pazzesco? Sì, perché allora, ti spiego. Dimmi, spiega. Io prima di essere fruttariano faccio un altro tipo di classificazione, non è che mi definisco. Cioè, io sono spiritualista prima di tutto. Vabbè, ma lei può essere quel che vuole. Aspetta, fammi sentire. Vabbè, spiritualista, sentiamo. Che vuol dire? Vuol dire che credo che non siamo questo corpo, non siamo questo falso ego, e penso che siamo delle anime tutti, quindi delle scintille di Dio. Vabbè, ma questo vabbè, d'accordo, siamo delle scintille di Dio, ma questo che vuol dire? Cioè, lo spiritualismo come si lega al fruttarianismo? Quindi io arrivo da una tradizione, diciamo, induista. Sì. Vabbè, questo. E per cui cioè ci si può adesso andando al sodo, si può campare anche solamente con il respiro? Sì, questo è un altro discorso ancora. Cioè l'argomento è vasto. È vasto, sì, è vastissimo. Ma la sua cena qual è, ad esempio? Ecco, la cena, Parenzo vuole sapere. Cena, perché se io ho una fame pazzesca vado a casa, mi hanno fatto una cotoletta alla milanese, ad esempio. No, per carità, non pronunciare no, questa è cosa. Vero, mi hanno fatto una cotoletta alla milanese, non vedo l'ora di andare a casa a mangiarla. Invece voglio la tua cena qual è? Qual è la sua cena, signore? La mia? Sì, certo. Ma io di solito mangio così, frutta adesso sciolta, ogni tanto mi faccio delle composizioni di preparazione che sono paragonabili a qualcosa che si può definire insalata fruttariana. Ma generalmente, non so, prendo frutta sciolta, quanti ne voglio di pomodori crudi e li mangio così, e poi aggiungo magari una mela o altre cose. E le verdure non si mangiano? Anche quelle sono esseri umani? Non sono esseri umani, però sono delle piante che soffrono. Soffrono le piante. Con questo hanno un livello di coscienza inferiore. C'è un mio amico che si chiama Bistecca, davvero? No, carissimo, te lo giuro, un mio amico di Roma che si chiama Bistecca. Dice, ti stiamo ascoltando, firmato, lui si chiama, il suo soprannome è Bistecca, un mio amico carissimo, davvero. Niente, era molto, come dire, incuriosito da questo cibo. No, però vorrei capire una cosa. No, ma semplicemente, ma io quello che faccio io è semplicemente quello che, e poi anche nella Bibbia, per esempio, come rivelazione, come testo sacro, è descritto in Genesi 1.29, cioè quando dice ad Adamo, quando sono nell'Eden, tutto quello che fa frutto, che porta seme, quello sarà il vostro cibo, mentre tutte le altre cose erano per le fiere. Per cui, diciamo, però io voglio capire una cosa: chi mangia la carne, secondo te, è un assassino? E questa è la cosa dirimente. Ma non è che è un assassino, è che per via della legge del karma, che è la legge imparziale di azione e reazione, genera del karma negativo, nel senso che si fa complice nel momento in cui uno va a comprare. Si fa complice di che? Si fa complice di che? Complice di una, di un omicidio? Omicidio di solito si riferisce agli uomini, comunque diciamo così, dell'uccisione, della sofferenza degli animali. Ma per te uomini e animali sono uguali? Non sono uguali, no, però non abbiamo bisogno di... Sì. È uguale l'essenza, nel senso che per me l'anima che ho dentro, che abbiamo tutti dentro, è dello stesso tipo che hanno gli animali. È uguale a quella degli uomini, ma si può campare solamente di frutta, secondo frutta e verdura? Sì, si può campare. Beh, io sono 5 anni che campo, sto bene, non mi sono mai ammalato, faccio tutto quello che devo fare. Lavoro, mi pago il mutuo, tanto per intenderci. Ma tipo, cos'è che mi hai detto oggi pomeriggio? Hai detto a un mio collaboratore l'espansione, ma te non ti vuoi più espandere materialmente. Che vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che se prima, quando studiavo, inseguivo delle cose materiali, adesso non hanno più un polo attrattivo. No, non ti attraggono più. Vabbè, Marco, no. Jailevra, ti voglio chiedere una cosa: ma tu hai praticato l'urinoterapia per caso? Sì, io ho praticato anche l'urinoterapia, cioè la pratica. Ma non è una cosa che ho inventato io, è una cosa lo so. Ecco, ma come fai? Di anni, perché... Ma è vero che si beve pure il piscio degli animali? Quello lì è la cosa migliore per tutti, diciamo. Ma cioè, consigli di bere il piscio degli animali? Basta, io non riesco a fare un discorso lungo perché ovviamente scusatemi. Primo, è venerdì e io devo andare a cena, sono le 20:46, è la radio della Confindustria. Bere anche il piscio degli animali e dire che si va alle 20:46, che è normale, questo, cari amici, no. Fine della settimana. Non potete dirmi che è normale. Marco, come puoi dire che è normale? È pieno di medicine che sono medicinali efficaci, che contengono l'urea e l'allantoina, che sono estratte. Sì, però amico mio, non mi puoi dire l'urinoterapia è una cosa che abbiamo già affrontato un anno fa, due anni fa, qui alla Zanzara. Però addirittura tu dici che sarebbe cosa buona e giusta per la nostra salute bere il piscio degli animali. Adesso questo francamente... Ma no, non di qualsiasi animale, ci sono degli animali indicati nella tradizione che sono sicuramente solo quelli erbivori. Ma tu l'hai fatto o no? Infatti, per fare l'autourina bisogna avere proprio una dieta molto pura. Infatti, ma l'hai fatto o no? Tu l'hai fatto o no? Non è indicata per gli onnivori, capisci? D'accordo, ma tu l'hai fatto o no questa cosa? Hai preso il piscio? Hai bevuto il piscio degli animali o carne? No, io sai, ho una dieta talmente pura che la mia va bene per però me. Dici alcuni animali erbivori sono indicati per l'urinoterapia, giusto? Sì, come la mucca ad esempio, è la piscia della mucca, capito? Capito Parenzo? Io chiedo scusa, non mi voglio arrabbiare perché è il fine settimana, non voglio arrabbiarmi che poi sembra che sopra, però come si fa a dire, tra l'altro col presidente della Confindustria in macchina che sta tornando a casa dopo una lunghissima settimana di lavoro, che accende la radio sulla sua radio e vuol sapere che cosa succede il fine settimana, sentire un simpaticissimo signore fruttariano, per carità di Dio, grande rispetto per tutto, che alle 20:48 dice che si può bere l'urina di mucca, cioè io che poi il matto sembro io, capito, alle volte lei si arrabbia, dico ma arrabbio per questo, perché come però si fa? è stato esauriente. Grazie Marco, grazie, presto, arrivederci, grazie. Io voglio che parlate di cose interessanti, vi voglio sentire un'altra volta, il bevitore di piscio. Eccolo qua servito, dopo diverso tempo siamo andati oltre, c'erano i bevitori di piscio da animali. Ma si potrebbe intervistare, che so, Ainis ogni tanto, no? Allora Marco da Brescia, ti devo deludere, quel telefono lì è spento Parenzo, telefono, lo becco lunedì tanto. È spento. Vai Marco. Pronto? Dimmi. Ciao, ascolta, beh, io ho chiamato per i vitalizi ai politici, però una piccola parentesi, perché il Fruttarolo di adesso era uno spiscio, mi sono pisciato addosso dalle risate e mi è dispiaciuto. Ma non beva magari... però, Non beva, no, però. Ma mi dispiace perché è andata persa, magari gli poteva servire. Signor Fruttariano, era un fruttariano bevitore di piscio. Vai, Marco. Ecco, a posto. Allora, ascolta, una cortesia, Cruciani, continua a non smettere mai con i vitalizi. No, mai, guarda, la settimana prossima voglio fare l'inferno, Bravissimo, ti spiego perché. Allora, se è vero come è vero che Porta a Porta è la terza camera dello Stato, giusto? Sì, sempre stata definita così, visto che il Senato dovrebbe sparire, speriamo, a tracazzata, e quindi si libera un posto, prenditelo te, la seconda camera dello Stato diventa la Zanzara. No, ma io non voglio essere né la prima, né la seconda, né la terza. No, voglio... Ti spiego perché, perché in Italia si fa le cose solo se i giornalisti spaccano le palle. Ma no, ma il problema dei vitalizi, purtroppo, guarda, ieri, l'altro ieri abbiamo mandato in onda questa intervista a Pezzana, che è anche un amico, lo conosco da un sacco di tempo, l'abbiamo sempre chiamato su cose che riguardano Israele, non è mica colpa sua, però ha detto una cosa molto semplice: io non ho fatto l'eroe, non ho fatto e non faccio l'eroe, il vitalizio, la legge per una settimana alla Camera mi consente, mi ha consentito fino adesso di prendere oltre 2000 euro al mese, non ci ha voluto dire quello che fa, anzi si è anche offeso, però è questa la realtà, tanti pensionati di fronte a questo racconto, una settimana in Parlamento e 2100 euro al mese da non so quanti anni, sono incazzati neri e bisogna dirlo, sono incazzati neri, però, dai, però, a onor del vero, Walter da Torino, devo chiudere, Walter da Torino, non va spiegato un cazzo, va spiegato a questi che sono arrabbiati, che in realtà quelli ce lo hanno perché è un loro diritto. Ma non è nessun diritto, Walter da Torino, un diritto che si sono dati da loro stessi, dai, su, Walter Torino, un loro diritto, certo, quando uno se lo autodecide, se lo autocostruisce, dai, Walter, vai, Walter, Giacomo Biella, vai. Vai Giacomo, dimmi. Eccoci qua, ciao, niente, senti, fruttariani, vegani, un disastro, ascolta, io caccio e... Cacci, ma anche sì, tutto quello che caccio, okay? Praticamente ho una teoria sui vegani che se i nostri avi non avessero cacciato, sì, a questo a noi non saremmo qui, sì, anche perché io vorrei la vedere razza si sarebbe il fruttariano in Svezia è dicembre, novembre, febbraio, marzo, sì, che cazzo mangia l'erba. Ciao, anche Giacomo, a presto, 18:30 lunedì, ciao, viva la Zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Pronto? Questa è Radio 24, vero? Pippe. Radio 24. La passione si sente.